Para o autorizado receber de você o paciente. Io 320, mi ho messo il volo con la pistola 1 stage, 2 diritti, 9 1, 3 di sommo, 5 controllo, 2 di verde, 8, 3 di fuori, 5 0, 3 di fuori,